musica od elettronica, attivo la mia mente e scrivo la realtà, ma non sarà di certo semplice suonare in un computer senza la fantasia elettrica ed elettronica. Trasmetto i miei pensieri, piani verso te, ma il cuore no, lui non è elettrico, si esprime come vuole, tra brividi e dolore sapre. Gioco la mia notte, ma non vendo l'anima, e senza lo sai, ma io no, non posso. Gioco la mia notte, ma non vendo l'anima, e senza lo sai, ma io no, non posso. Elettronica, i dischi del bambino che vive dentro me, nell'anno buono per riflettere, io sposto solo i limiti ancora un po' più in là. Elettrica ed elettronica, trasformerò ricordi in nuova libertà. Nel buio sai, tu puoi risplendere, ma lascia che il tuo cuore esprima come vuole amore e dolore, sapore. Senza lo sai.